America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, abbiamo ascoltato ieri il discorso del presidente Barack Obama. Vorrei riproporvi alcune battute di questo discorso importante, un discorso storico che comincia ad avviare il disimpegno degli Stati Uniti dall'Afghanistan a 10 anni dall'attacco di Al Qaeda contro le Torri Gemelle. Nearly 10 years ago, America suffered the worst attack on our shores since Pearl Harbor. This mass murder was planned by Osama bin Laden and his Al Qaeda network in Afghanistan and signaled a new threat to our security. One in which the targets were no longer soldiers on a battlefield, but innocent men, women, and children going about their daily lives. Abbiamo ascoltato uno dei momenti, direi, più emozionanti, quello in cui Barack Obama si rivolge agli americani e gli ricorda di aver fatto loro una promessa tempo fa e di volerla mantenere, annunciando appunto questo ritiro, questo primo ritiro che si concluderà nell'autunno dell'anno prossimo. Barack Obama aveva fatto anche un discorso importante sul Medio Oriente. C'è un quadro di politica estera per la regione che a questo punto assume dei contorni molto più precisi, soprattutto dopo questo discorso sull'Afghanistan. E dunque io di questo vorrei parlare oggi, vorrei fare un'analisi più approfondita con uno dei principali esperti di Medio Oriente e di Islam, Kenneth Pollack, responsabile del centro Saban sul Medio Oriente della Brookings Institution. Hello, Ken, how are you? Good morning, Mario, how are you? Very well, thank you. So, Ken... E dunque ho cominciato chiacchierando con Ken Pollack con il chiedergli un'idea più generale di quella che è la filosofia dell'amministrazione Obama nei confronti soprattutto del Medio Oriente, che resta il calderone centrale per quelle che sono le tensioni con il mondo islamico. E dunque Ken Pollack dice che gli Stati Uniti hanno compiuto una svolta storica nel momento in cui si sono affiancati a questi movimenti per la democrazia in Medio Oriente, e ovviamente è una svolta che rischia di creare, dice Pollack, dei problemi con i regimi esistenti, in particolare con paesi come l'Arabia Saudita, che sono molto spaventati da questo genere di cambiamenti. E Pollack sottolinea che la cosa più interessante non è tanto quello che il presidente ha detto, ma quello che non ha detto, questo sia riguardo alla Siria che riguardo al Bahrain, che è ovviamente un alleato degli Stati Uniti. What was interesting in many ways was the limits on what the president was willing to say. In Bahrain he clearly indicated that the United States was not happy with what had happened there, but wouldn't go on to lay out any more far-reaching consequences. E secondo Pollack, questo significa che l'amministrazione è stanca di impegnare troppe risorse americane per cercare di realizzare cambiamenti per conto di popoli che non sono in grado di farli da sé. Obviously, all of Syria's neighbors are concerned. Lebanon, Israel, the Palestinians, Jordan, Iraq, as well as Turkey, are all very concerned about what happens with Syria. Turchia e Siria è una relazione molto problematica e in qualche modo, dopo quello che abbiamo visto negli ultimi giorni, quello che è successo in Siria, Pollack ci dà una chiave interpretativa e dice cioè che è chiaro che tutti i vicini della Siria sono molto nervosi: il Libano, Israele, i palestinesi, la Giordania, l'Iraq, soprattutto la Turchia, sono molto preoccupati di quelli che saranno le sorti della Siria. Ovviamente in questo bisogna includere l'Iran. And I think from the American perspective there are a variety of competing issues there. First, as I suggested, it's not clear what the United States can do. Pollack dice che dal punto di vista americano ci sono una varietà di elementi in concorrenza fra loro e soprattutto non è ancora chiaro ciò che l'America è davvero in grado di fare per realizzare un cambiamento in Siria. Per questo la prudenza è uno degli aspetti centrali, deriva dal fatto che la Turchia non vuole che ci sia una destabilizzazione con alcune minoranze etniche che sono a cavallo fra Siria e Turchia, che potrebbero finire con il destabilizzare persino la Turchia. We should remember that the United States has interests that transcend whatever administration is in power. And I think that that's where the commonalities between the administrations is coming up. And I think that it's just kind of silly to say, oh, you know, Obama's just like Bush. Abbiamo affrontato con Pollack questioni, direi, più di visione, più di medio-lungo termine. E, per esempio, qualcuno dice che Obama ha deciso a un certo punto di seguire la strada di Bush relativamente ai cambi di regime. Ho chiesto cosa ne pensasse a Pollack e la sua risposta è stata molto interessante, perché lui sostanzialmente dice che l'amministrazione Obama e l'amministrazione Bush, dal punto di vista dell'interesse di lungo termine degli Stati Uniti, quello della diffusione e dell'affermarsi della democrazia, non hanno interessi diversi. Però questa amministrazione, dice, è molto più cauta nell'uso della forza, preferisce usare un approccio multilaterale, decide l'intervento militare in circostanze molto diverse da quelle scelte da George W. Bush. Per esempio, nel caso della Libia, l'amministrazione ha dichiarato come obiettivo degli Stati Uniti il cambio di regime, ma non è stato quello il motivo dell'intervento militare. Su questo Obama è stato molto chiaro. L'obiettivo dell'intervento era quello di evitare una tragedia umanitaria. Questa ragione è molto diversa da quella che ha spinto Bush a intervenire in Iraq e in Afghanistan. Democracy is a form of government that can be adapted by pretty much anyone, anywhere. The issue is less about is democracy possible. The issue is much more about what it takes to make democratic transitions succeed. Ecco, c'è un aspetto molto importante che tutti noi ci domandiamo: è possibile far mettere radici democratiche in paesi come l'Afghanistan o in paesi arabi che non hanno mai avuto consuetudini democratiche? Beh, insomma, questo dubbio è emerso e Ken Pollack lo ha chiarito, direi, con grande forza, perché dal suo punto di vista, dice, per decenni, se non per secoli, c'è stata gente che ha sostenuto che questo quel paese non avrebbe mai potuto essere una democrazia. La questione non è quindi, dice Pollack, il fatto che la democrazia sia possibile o meno. La questione è che cosa si può fare per il successo della transizione democratica. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Dall'inizio delle proteste in Nord Africa e Medio Oriente, vari musicisti, devo dire, hanno deciso di partecipare alla primavera araba a modo loro, cioè con la musica. Rapper Khaled è figlio di genitori che sono scappati dalla Libia, è nato negli Stati Uniti e in questa canzone che vi propongo racconta la sua storia di Khaled, Can't Take Our Freedom. You can't take our freedom or take our soul. Take our freedom or take our soul. You are not the one that's in control. You are not the one that's in control. Said la ilaha illallah. No power's greater than God's. Go ahead and devise your plans. At the end of the day, you are just a man. Just a man. Da New York è tutto. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.